Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. Salve a tutti e a tutti, quella che avete appena sentito è la nuova bellissima, fantastica sigla della nuova rubrica di Radio Contado, solo per voi nella stagione numero 8, che si alternerà alle puntate in diretta, quindi per voi ogni due settimane avrete un bellissimo approfondimento su varie tematiche da noi selezionate. Per partire cominciamo con una serie di interventi che sono stati tratti da un incontro che si è tenuto in Valpellice quest'estate. Ma non vi dico di più, ve lo faccio introdurre da uno degli organizzatori, quindi ringraziamo Federico per l'introduzione e tutti quelli che hanno partecipato, che sono intervenuti e che sono stati con noi in quei tre giorni. Buon ascolto. Allora, l'incontro Storie e Resistenze Contadine è stato organizzato il 20, 21 e 22 giugno di quest'anno a Villarpellice in Valpellice. In occasione dei 500 anni dalle rivolte contadine, che tra il 1524 e il 1526, dentro il Sacro Romano Impero, videro masse contadine sollevarsi in rivolta contro l'oppressione del potere ecclesiastico e feudatario a difesa della propria terra, della propria libertà e delle proprie comunità. E quindi l'idea di fondo dell'incontro è stata di presentare diverse letture della storia, quindi vedere la storia non come qualcosa di lineare, ma come qualcosa di vivo, quindi come qualcosa che mantiene una continuità e una dinamicità e che quindi può effettivamente aiutarci a comprendere meglio il presente e mostrare in modo più chiaro quali possibilità abbiamo davanti per il futuro e come quello che facciamo nelle nostre vite e lotte legate al mondo contadino, come si possono mettere in continuità con questa storia. Poi difatti l'altro giorno è stato sì, un insieme di seminari, discussioni, confronti e anche tanta socialità. E in questi tre giorni appunto si è provato un po' a seguire da un lato gli attacchi che dal Medioevo fino ad oggi ci sono stati contro i saperi e le comunità contadine e i diversi modi di relazionarsi collettivamente con la terra e dall'altro come individui, famiglie, comunità intere si sono organizzate per rispondere a questi attacchi e quindi cosa hanno fatto per difendere questa tensione storica verso una vita autonoma e comunale. Nel concreto poi le discussioni sono divise in diversi tavoli che hanno toccato varie tematiche, tra cui appunto l'attacco ai saperi delle donne, culminato nella caccia alle streghe e dunque l'espropriazione dei saperi come comunitari, e la guerra alle masse contadine nel 1500 e le sue implicazioni politiche e sociali, come forme di colonialismo interno, a favore di processi di accumulazione del potere, poi connessi quindi con la nascita degli stati-nazione che conosciamo oggi, e poi il colonialismo, l'estrattivismo e la nascita dell'economia moderna. E diciamo il quarto tema principale era riflettere sulla questione contadina, e quindi capire cosa intende oggi con contadinanza, provare quindi a connettere il passato, il presente e il futuro tenendo come riferimento appunto la questione contadina e il tentativo di recuperare forme di vita libere. Direi che in generale l'incontro ha rappresentato un pur quando breve e con tanto contenuto, comunque un momento di riflessione e condivisione, anche con persone da realtà e da diverse, anche geografiche diverse, nel tentativo di riconoscersi parte di una storia lunga e collettiva a cui tutti apparteniamo. Thank you. passerei subito la parola a Daniele Pepino di Edizioni Tabor, che ci fa un po' l'introduzione sul perché, diciamo, la discussione di oggi vogliamo iniziarla proprio dal 1525, perché da queste rivolte contadine, proprio perché proprio da qui, e insomma perché anche un po' tutte queste tre giorni nascono da questa soggezione storica, da questi episodi storici qui. Allora, ciao a tutti e a tutte, grazie di essere venuti. Appunto, come già diceva Gigi, a me spetta un po' fare una sorta di introduzione, nel senso che abbiamo preso un po' la data del 1525, la cosiddetta guerra dei contadini, come un'occasione, un pretesto per parlare di tante cose che quella vicenda chiama in causa, però appunto vale la pena probabilmente giusto dire due parole su che cosa è successo in quegli anni e in particolare in quell'anno lì, 1525, quindi esattamente 500 anni fa, il 15 maggio a Frankenhausen, che si trova in Turingia, più o meno nella Germania centrale, al tempo era DDR, il 15 maggio appunto c'è la battaglia finale, quello che possiamo considerare il culmine della guerra dei contadini. A Frankenhausen appunto si schiera l'ultimo esercito compatto di contadini, si radunano sul monte, quello che verrà chiamato poi il monte della battaglia, affrontano un esercito dei principi, che i principi avevano messo insieme per combattere, e vengono sostanzialmente sconfitti per l'ultima volta, in realtà in Germania. Poi ci saranno altre propaggini della guerra dei contadini in Tirolo e in altre parti, fino al 1526, fino all'anno dopo. Quell'anno viene, cioè in quel giorno viene catturato anche Thomas Münzer, che è possiamo considerare il profeta della rivoluzione, il teorico, il teologo che ha dato le parole d'ordine principali al movimento di rivolta contadina. Verrà decapitato, torturato e poi decapitato pochi giorni dopo. Conviene appunto fare un passo indietro per spiegare come si arriva a quella data lì, come dicevo appunto il culmine di un movimento rivoluzionario da un lato, e del culmine di tutta una serie di processi sociali che avvengono nell'Europa, quella che oggi chiamiamo Europa occidentale, negli anni e in realtà nei secoli precedenti. Cioè, ovviamente adesso non possiamo fare una ricostruzione storica completa, giusto due accenni. Diciamo che a seconda delle zone negli anni precedenti o nei secoli precedenti c'è un aggravarsi della crisi del mondo feudale, in particolare con l'introduzione del denaro, dell'economia monetaria, quindi un'economia di mercato, va a disgregare quelli che erano legami comunitari, solidali nei villaggi. Il denaro pian piano è un processo che dura secoli, cioè il denaro ovviamente esisteva già prima, e un'economia di tipo monetario, capitalista o protocapitalista esisteva già dal 200, almeno per i comuni in Italia, nelle Fiandre e in altre parti. Il Sacro Romano Impero da questo punto di vista è un po' più arretrato, questa dinamica arriva successivamente, e appunto questo insieme ad altre scoperte o invenzioni tecnologiche, insieme alla cosiddetta scoperta dell'America, tutta una serie di processi appunto vanno ad attaccare quelli che erano dei diritti consuetudinari, possiamo chiamarli, su cui i contadini basavano la loro vita da secoli. E quindi possiamo leggere anche questo culmine della guerra dei contadini come una resistenza, un tentativo da parte delle comunità di villaggio, di un'economia di villaggio, di appunto resistere a questi processi. È il momento in cui appunto, oltre a un'economia di mercato, un'economia capitalista, va affermandosi anche lo Stato territoriale, uno Stato-nazione, nasce proprio in quei secoli lì, nel 500 in particolare, lo Stato assoluto, e anche lì avviene creano un conflitto tra l'autonomia che le comunità di villaggio erano abituati ad avere sotto diversi aspetti, dall'utilizzo delle risorse, quindi l'utilizzo dei boschi, dei pascoli, delle acque, ma anche sotto tantissimi altri aspetti, l'elezione dei propri rappresentanti, dei propri consigli di villaggio, anche dal punto di vista della sicurezza, diciamo. È il momento in cui si vanno a formare delle quello che poi diventeranno i corpi di polizia statale. Fino ad allora diciamo, la società contadina era una società armata, c'erano più o meno ogni villaggio, ogni parrocchia aveva le proprie milizie che servivano insomma, per difendersi da eventuali invasioni, da attacchi, da furti, rapine, passaggi di eserciti, quindi era una società armata che aveva nelle proprie mani anche la questione della sicurezza. Tutti questi vari aspetti vengono messi in discussione appunto dal formarsi di nuove burocrazie, nuove forme di mercato, di economia, nuove forme di sapere. Si va proprio in quel periodo a formare tutta una nuova classe burocratica, maschile principalmente, accademica, che deve espropriare tutte le altre forme di sapere che fino ad allora erano mantenute all'interno delle comunità, in particolare erano patrimonio delle donne, che erano quelle che tradizionalmente conoscevano le erbe, avevano la capacità, le conoscenze per la riproduzione della vita, della morte, via dicendo, e quindi è un sapere anche lì che va sradicato e va preso in mano, monopolizzato dalle nuove classi dirigenti. Quindi tutti questi fattori fanno un po' da sfondo alla cosiddetta guerra dei contadini, dico cosiddetta nel senso che già alcuni storici, in particolare uno storico tedesco, Peter Blick, ha messo in discussione questa definizione, perché da un lato, se è vero che i contadini rappresentavano comunque il 90% della popolazione, in realtà la guerra dei contadini in Germania e anche nel secolo precedente altri movimenti di resistenza, lui l'ha definita la rivoluzione della gente comune, nel senso di coloro che non erano privilegiati, quindi tutta la gente, che quindi erano anche operai, artigiani, minatori, pastori, insomma tutti i vari mestieri comunque collegati al mondo rurale, e quindi insomma che la definizione guerra dei contadini può essere un po' riduttiva, la teniamo buona perché magari è comodo, però può essere un po' riduttiva. Thomas Münzer sarebbe, insomma, bisognerebbe fare una giornata se basta apposta su Thomas Münzer, diciamo giusto due cose che rappresentano un po' bene il movimento della guerra dei contadini. Thomas Münzer era un pastore, un predicatore che si avvicina al movimento luterano. Ricordiamo, nel 1517, pochi anni prima dello scoppio della guerra dei contadini, Lutero affisse le famose tesi a Wittenberg contro le indulgenze, dando origine a un movimento di riforma, un movimento che ha delle ali molto radicali, molto più radicali. Lutero stesso, che in qualche modo aveva innescato questo incendio, poco dopo condannerà i contadini, spronerà i principi a massacrarli, a sterminarli, mentre appunto tutta un'altra serie di predicatori più popolari, più radicali, saranno a fianco dei contadini. Thomas Münzer non è solo un teologo, non è solo un prete, è un vero e proprio rivoluzionario, un attivista instancabile. In tutti gli anni prima del 1525 gira mezza Europa, dall'Alsazia alla Boemia, alla Svizzera, insomma gira un po' in tutta Europa proprio per tessere questa rete di alleanze tra contadini, tra minatori, tra gli artigiani delle città e vari operai delle nuove fabbriche che stavano nascendo nelle città, e riesce proprio a creare quella che lui chiamerà la Lega degli Eletti, una lega, un'organizzazione armata per difendere le lotte dei contadini, nel senso degli esperimenti rivoluzionari. I contadini si approprieranno di diversi territori, anche di alcune città, di alcuni consigli comunali, e per difendere militarmente questi esperimenti, oltre che per attaccare le sedi del potere, quindi i palazzi dei principi, le chiese, i monasteri che vengono attaccati, saccheggiati e via dicendo, si creano appunto questa vera e propria rete di attivisti. Engels, quando ne parlerà nel suo libro La guerra dei contadini, lo definirà il primo esempio di un vero e proprio partito rivoluzionario in senso moderno, cioè con una capacità, una capillarità, una progettualità. Questo è un aspetto che in realtà molte rivolte contadine hanno, sebbene siano spesso considerate come delle esplosioni di rabbia, senza progetto, senza programma, senza idee. In realtà abbiamo un'idea un po' falsata di quello che era il Medioevo, di quello che erano le richieste, le rivendicazioni portate avanti dai contadini. Non era una società semplice, grezza, una società estremamente complessa, con tutta una serie di norme che regolavano l'uso delle risorse, un equilibrio per mantenere un equilibrio anche ecologico, tutta una serie di regolamenti, di diritti consuetudinari, comunque estremamente regolamentata. E i contadini avevano elaborarono appunto delle forme di lotta, andando a difendere, a rivendicare tutti questi loro diritti. E, appunto, dicevo, Thomas Münzer partecipa insieme a tutta una serie di predicatori itineranti, di artisti, di stampatori, di tipografi, di minatori, di mendicanti, venditori di libri veri o falsi, che clandestinamente portavano in giro le rivendicazioni e i manifesti dei contadini. Solo per citarne un paio, la petizione dei contadini della Foresta Nera, o 12 articoli, che è probabilmente il documento più famoso, ma anche quello un po' più moderato, di compromesso, che mettono insieme tutte le richieste, le rivendicazioni dei contadini. Per la prima volta nella storia, questo è un altro aspetto della tecnologia che si intreccia con la guerra dei contadini, c'è la possibilità, era stata inventata da non molto, alla fine del 400, la stampa a caratteri mobili. E quindi si diffondono tutta una serie di laboratori per la stampa, e quindi tutta una serie di lavoratori, di operai di queste tipografie, di queste stamperie, che molto spesso si schierano con i ribelli. Non a caso i principi porranno una particolare attenzione a reprimere, a smantellare tutta questa rete di tipografie e di stamperie clandestine. Però è interessante come i volantini, i manifesti, i fogli murali che conosciamo oggi nascono proprio in quel momento lì, con i fogli di scarto. Cioè, per la prima volta c'è la possibilità di stampare a basso prezzo e in tirature alte rispetto al passato, e quindi i contadini si appropriano di questa nuova tecnica e la fanno loro, la utilizzano per una vera e propria propaganda rivoluzionaria, per come la possiamo intendere oggi. Correte, correte, scoppiata la guerra. Vi si comanda perciò di prendere le armi e lasciar questa terra. Il vostro re vi guida alla vittoria. Ritornerete carichi di gloria. Quanti dicono di sì e sono già pronti a partire. Soltanto c'è quel mugnaio, stavolta decide di disobbedire. Forza, venite gente, correte, correte, scoppiata la fame. Vi si comanda perciò di portare a palazzo ogni avanzo di pane. Il vostro re deve essere nutrito. Venite a soddisfare il suo appetito. Sono già pronti a partire. Soltanto c'è quel mugnaio, decide di nuovo di disobbedire. Scoppiato il dolore, vi si comanda perciò di non bere più vino e non fare all'amore. Il vostro re si strugge nel tormento, quindi si faccia eco al suo lamento. Sono già pronti a partire. Soltanto c'è quel mugnaio, continua tranquillo a disobbedire. Scoppiata la peste, vi si comanda perciò di chiudervi in casa e serrar le finestre. Dimenticate dunque questa vita. Il vostro re dichiara che è finita. Quanti dicono di sì e sono già pronti a morire. Soltanto c'è quel mugnaio, decide di nuovo di disobbedire. Ora il villaggio è deserto e le nelle contrade non c'è più nessuno. Freddo percorre le strade, un vento cattivo, fratello del fumo. Resta soltanto cieco che ride a gran voce tra i muri di corte, disobbediente alla fame, alla sete, al dolore e persino alla morte. Aspetto su cui faccio giusto un cenno di Munzer e in generale del pensiero riformato è appunto la questione teologica, che noi oggi leggendo magari delle parole d'ordine, leggendo i testi di Munzer, anche sulla scia di una interpretazione storica abbastanza progressista che legge le parole d'ordine religiose come qualcosa di arretrato, insomma, di eredità di tempi bui e superstiziosi, in realtà vediamo come anche le parole d'ordine, che ci possono sembrare più strettamente teologiche, hanno un radicamento e delle ragioni sociali, economiche abbastanza evidenti. Il Bundschuh, la rete dei contadini che precedette il 1525, nei 30 anni precedenti, questa rete del Bundschuh, che significa la scarpa alle gacci, lo scarpone alle gacci, per estensione si intendeva la lega dei contadini, era un simbolo delle scarpe dei contadini contrapposte agli stivali dei signori. Questa lega, per fare giusto qualche esempio, aveva come slogan sulle proprie bandiere nient'altro che la giustizia di Dio, che oggi può sembrarci qualcosa di un po' fondamentalista cristiano, in realtà era una delegittimazione nei fatti di tutte le altre autorità. Nessuno aveva l'autorità nei tribunali, nei principi, nell'imperatore dovevano avere il potere di giudicare, perché questo spettava solo a Dio e ai suoi rappresentanti in terra, di cui i contadini si consideravano appunto i suoi rappresentanti. Tutto questo processo dipende molto anche dal fatto che con la riforma, oltre alla possibilità di diffondere i propri messaggi e rivendicazioni attraverso la stampa, la riforma aveva permesso una rottura con il monopolio proprio della conoscenza, del sapere, che fino ad allora era stato in mano alla Chiesa. Il fatto di tradurre la Bibbia in volgare aveva permesso alla gente comune di leggere le sacre scritture, di capire quello che fino ad allora avevano ripetuto, ascoltato in latino, quindi senza capirci niente, erano delle formule vuote. Questo è importante anche poi nel pensiero di Munzer. Allora leggono la Bibbia e la interpretano a modo loro. Come sappiamo, nella Bibbia uno può leggerci tutto il contrario di tutto, è stato nei secoli sia lo strumento per legittimare l'oppressione, la servitù, l'obbedienza, ma anche molto spesso uno strumento di liberazione, di rivendicazione di uguaglianza. E questo è quello che viene fatto appunto grazie alla predicazione in volgare. Altri aspetti erano l'elezione diretta dei parroci, la gestione delle decime da parte della comunità, quindi anche non un rifiuto totale di pagare le decime, ma che era la comunità di villaggio che doveva decidere queste decime e l'utilizzo di cui farne. Anche la stessa elezione del parroco, ci può sembrare una cosa così non così importante, in realtà dobbiamo immaginare dei villaggi in cui la parrocchia era il centro della vita quotidiana, tutti i riti, c'era proprio un fondo cerimoniale che è simbolico, che segnava tutti i momenti della vita comunitaria. Il parroco era colui che gestiva, rappresentava questa cosa, quindi il fatto che fosse la comunità a eleggerlo tra uno dei loro, piuttosto che uno che arrivava da Roma e che appunto esigeva delle decime che poi si riportava a Roma, e appunto non è tanto una questione teologica, è una questione di riappropriazione da parte della comunità di tutti i loro ambiti di vita, compreso quello cerimoniale, rituale e religioso. Allora, per concludere, ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose che non abbiamo il tempo di affrontare, e faccio solo un cenno così, un po' accennavo già prima di come i movimenti di lotta contadina siano sempre stati visti in una visione un po' progressista della storia, come qualcosa di arretrato, di rozzo, di superstizioso, privo di programmi, progettualità. Non soltanto, noi sappiamo, vabbè, nel corso dell'Ottocento sicuramente Marx, per quanto comprendesse, Marx nel Capitale scrive: l'espropriazione dei produttori rurali, dei contadini e la loro espulsione dalle terre costituisce il fondamento di tutto il processo. Cioè, Marx si rende benissimo conto di come l'espropriazione delle terre rappresenti la vera origine del capitale. Allo stesso tempo però Marx, figlio del suo tempo, considera i contadini sostanzialmente una classe di barbari, qualcosa destinato ad estinguersi, perché l'idea del socialismo e della rivoluzione viene, così tagliando proprio con l'accetta, viene identificata con il processo delle forze produttive. Questo fa sì che il mondo contadino sia davvero vissuto come un residuo del passato che deve scomparire. Il contadino è in quanto tale quasi antropologicamente un ostacolo allo sviluppo della scienza, della libertà dalla tirannia della natura. La rivoluzione viene vissuta in questo senso, no? Come un liberarsi dalla tirannia della natura grazie al progresso tecnologico, e in questo processo ovviamente il contadino è legato alla terra, è qualcosa che rappresenta un residuo del passato da eliminare. Questo appunto ha un sacco di implicazioni. Quello che, così come spunto per finire, in realtà è qualcosa che non è che finisce nel Cinquecento, quello lì è un passaggio. Adesso poi negli interventi dopo arriveremo a parlare fino all'Ottocento, anche del Novecento, di come quel tessuto comunitario in Europa rimane come sottofondo di numerose rivolte, resistenze anche nei secoli successivi. Però questo aspetto, secondo me, è importante sottolineare quanto questa ideologia del progresso, questa ideologia positivista abbia rappresentato in qualche modo il vero e proprio peccato originale, se vogliamo chiamarlo così, è il fallimento della rivoluzione in Occidente. In Russia abbiamo l'esemplificazione maggiore di questo processo, cioè la rivoluzione russa, a parte la corrente dei populisti russi, che anche qui si aprirebbe un altro argomento interessante da approfondire, a parte quella loro corrente, il pensiero di Lenin, soprattutto poi di Stalin, si fonda su questa idea che dicevamo prima, di un progresso nello sfruttamento della natura, che comprende appunto la scomparsa della classe contadina. Cioè il peccato originale, come lo dicevo prima, è davvero che si pensava di poter, cioè che per superare il capitalismo bisognasse batterlo sul suo stesso campo, cioè sul campo della produzione industriale, del gigantismo, della appunto cosiddetta liberazione dalla tirannia della natura. Ecco, io credo che cinque secoli dopo, mezzo millennio dopo la guerra dei contadini, che abbiamo appunto preso un po' a pretesto per riflettere sulla modernità in cui tuttora viviamo, che affonda lì le sue radici, possiamo fare un po' un bilancio di a che cosa ci ha condotto questa ideologia progressista, questa idea di libertà. Insomma, lo vediamo tutti intorno a noi, e insomma, credo questa potrebbe essere un po' l'occasione. Quindi facendo questo bilancio su dove ci ha condotto la modernità, credo sia anche contestualmente importante riscoprire quel mondo contadino che è stato sradicato, che è stato schiacciato dalla macchina dello Stato e del capitalismo, e che oggi, insomma, vediamo tanti segnali. E urgente ed è vitale riprendere, riscoprire, in qualche modo riaffinare, riarmare per farne un nuovo protagonista.